Vamos su café. ¡Vámonos! Pietro, è uscito, vieni! Ma che vieni? Puoi te lo so che rotto! Diciamo due cose per introdurre questa puntata di podcast che purtroppo è venuta a metà, perché le prime parti dove era tu ti sei dimenticato a registrare, esatto. Ed è stato proprio il momento più clou dove che si parlava maggiormente, dove si affrontavano i discorsi e quindi... niente, i discorsi erano questi. Sanremo... No, dai, facciamo un piccolo riassunto. Facciamo questo riassunto, va bene. No, dico, si parlava di Sanremo, Renzi, Grillo, e la Yokolotolovskis. Kiev. Il problema che c'è a Kiev in Ucraina, il casino che c'è in Ucraina. Quindi i discorsi erano questi. Timoshenko è diventata Yokolotolovskis. Che buona, vero? Niente, adesso dai, attacchiamo con la registrazione che abbiamo fatto in diretta. E vabbè, quello che viene, viene. Abbiamo parlato comunque di Sanremo, degli scandali che ci sono stati, di Rocco Hunt, che il... Comunque, Rocco Hunt e la Jalapas Band che ci è andato contro, ma è uno dei tanti. Ma poi tanti di Rufus, facendo dai un piccolo soltanto per quelli che ci ascoltano in differita. Ma di Rufus se n'è più sentito parlare. Chi è Rufus? Ma praticamente c'era un tizio che nei suoi concerti dice bestemmie, c'è una canzone che dice Gesù è gay, cose di queste cose, tu ci ridi. No, mi fa ridere detto da te. No! No, nel senso che ci sono delle canzoni veramente blasfeme e questi l'hanno invitato come se fosse un grande cantante. Diciamo, non l'ha cagato mai nessuno, non lo conosce nessuno. L'unica cosa che ha fatto è stata quella di fare una... fare delle canzoni blasfeme, di mettersi su internet. Vabbè, ma queste persone poi alla fine fanno un po' di casara, vengono ascoltate lì in quel momento, ma poi se le scordano. Vabbè, sono chiamati apposta per fare... Per fare casi, per fare un po' di ascolti, un po' di casino. Sì, per fare un po' di scandalo. Comunque, i scandali a Sanremo sono stati tanti, anche la Litizzetto che... Continua a dire parolacce come il nostro Pietro. Sì, ma onestamente, ma lei comunque ha la solita comicità fantoziana, stupida... Fantozzi era intelligente. Per dire, lei sembra tipo la vittima. Sembra, non lo so, comandata la marionetta. Non mi piace tanto. Ha sempre la solita comicità. Comunque, poi il fatto di Renzi, i 16 ministri uguali a quelli di Letta. Renzi che è salito tipo Mussolini, praticamente. Ancora non si è capito. Che comunque dal suo partito è stato votato. 3 milioni di voti ha avuto. Sì, vabbè, ma sempre Letta, sempre votato, dico, sono stati loro a chiedergli di fare il governo, altrimenti se ne stavano tutti a casa. Il concetto è stato questo, prima gli ha salvato il culo e poi quando non gli serviva più è stato messo nell'immondizia. Poi Grillo, il fatto che grida. Maria Santo, non ne posso più, andò a gridare a Sanremo. E crede, pure qua, ora magari spuntava tutta la scrivania. Basta, cazzo, basta, Renzi, sei una mano, Renzi, Maria Santa. Comunque, questo è il discorso. Ora il nostro Riccardo farà un bellissimo lavoro, quindi ringraziamo il nostro Riccardo, che monterà e farà il podcast della nostra puntata. Va bene, ciao ragazzi. Ciao. Buona musica. Dove governano cani e porci, benvenuti nel paese dei balocchi. Dove conti spaventano le nostre notti, benvenuti nel paese dei balocchi. Dove sono tutti benvenuti ai nostri porti, benvenuti nel paese dei balocchi. Lavori nero, morti bianche, sangue negli occhi, benvenuti nel paese dei balocchi. Sì, benvenuti nel paese dei santi e dei corrotti, benvenuti nel paese dei balocchi. Dove no giustizia, vige, legge filigrana, dove chi più mangia ruba e chi non mangia paria. Il governo che ci fotte, ma nulla di importante, ormai quel che ti fotte è Belen senza mutante. Sempre più arrogante, lo trovo eccitante, come una crociera senza GPS comandante. Da Silvio a Romano, troppi buchi nella lista, e dopo l'era Monti chiama pure l'analista. Visione pessimista e non trovi via d'uscita, la speranza nel progresso è già bella che è finita. Lo sport della domenica, amici e Italia 1 distraggono la mente per spingerlo nel da Borsellino a Schettino, da Falcone a Costantino, dall'Italia che pensava a quella che descrivo, dove governano cani e porci. Benvenuti nel paese dei balocchi, dove i conti spaventano le nostre notti. Benvenuti nel paese dei balocchi, dove sono tutti benvenuti ai nostri porti. Benvenuti nel paese dei balocchi, lavoro in nero, morti bianche, sangue negli occhi. Benvenuti nel paese dei balocchi, famiglie e imprese controllate dallo Stato, serande chiuse, la morte del mercato. E questo è il fantastico paese dove sono nato, dove l'operaio non riesce a arrivare a fine mese, dove il guadagno finisce nelle tasche di chi si nutre delle nostre spese. Aumenti, somenti, liste terminabili per degli interventi, ma se conosci il primario allora sei già tra i primi venti, altrimenti rischi di morire anche per un mal di denti. Amico, svegliati, questo è il paese delle mille menzogne, dove una madre impazzisce, fa diventare famosa anche Cogne, dove abbiamo città d'arte trattate come fogne. Ma come si fa a essere positivi in un paese mosso da Guzzini, dove governano cani e porci. Benvenuti nel paese dei balocchi, dove i conti spaventano le nostre notti. Benvenuti nel paese dei balocchi, dove sono tutti benvenuti ai nostri porti. Benvenuti nel paese dei balocchi, lavori nero, morti bianche, sangue negli occhi. Benvenuti nel paese dei balocchi. Paese dei balocchi. Mafia, corruzione, falsità, le uniche parole nei vocabolari. Dove sei? In poltrona rimpiangendo gli europei. Un filaggio al tabacchi a pregare un sei. Italia, dove sei? Ti ho perso lungo i passi. Non esiste più fiducia, guarda, sarà scazzi. L'innocenza giace nel fondo del cestino e ti chiedi vale la pena di far nascere un bambino. Ecco il perché sono sempre più vuoti i nostri asili, topi pervertiti coi videofonini, uomini di chiesa cadescano i bambini come corone divi della TV. Vieni e sorridi che ti scatto una foto ricatto, puoi fidarti di me, io sono il gatto e lui la volpe. Venite, morite alla nostra corte, oh! Erba verde, strisce bianche, bilanci rossi. Benvenuti nel paese dei balocchi, calciatori veli, non sacco di gossi. Benvenuti nel paese dei balocchi, predatori, viaggi, sexy, parco, giochi. Benvenuti nel paese dei balocchi, e se non ci credi guarda bene con i tuoi occhi. Benvenuti nel paese dei balocchi, dove governano cani e porci. Benvenuti nel paese dei balocchi, dove i conti spaventano le nostre notti. Benvenuti nel paese dei balocchi, dove sono tutti benvenuti ai nostri porti. Benvenuti nel paese dei balocchi, lavoro in nero, morti bianche, sangue negli occhi. Benvenuti nel paese dei balocchi. E benvenuti nel paese dei balocchi. Che casino. Ha fatto un bordello. Sì, perché qua abbiamo il televisore che fa... Se non metto muto e qua continua. Siamo chiusi fuori, che è arrivata una telefonata e internet parte. Ma che cose belle! Ma che organization, One Nation, One Station. Ecco, siamo di nuovo in onda, forza. Siamo di nuovo in onda? Sì, siamo arrivati. Rieccoci, niente, si è staccato perché è partita una... Che cos'è sto coso, Ri? Questo è il cronometro, quanto parliamo? È vero, si parlava poco così fa... Così ti stai zitto! Si parlava poco fa che parliamo assai, nel senso mettiamo troppo poca musica. Ecco perché adesso vi dico, vai con caparezza, no, non aspetta, siete stato. Aspetta, vai! Aspetta, che cacchio. No, dicevo una cosa, mentre scaricavo un po' di questa musica, c'era proprio su questo qua che abbiamo appena ascoltato, che si chiamava... Come si chiama? Benvenuti nel paese dei balocchi. Benvenuti nel paese dei balocchi. E leggevo, cioè, è troppo facile fare il rap in Italia, perché è dagli anni 70 che le cose sono uguali, quindi... si parla sempre della stessa. Se ci fossero state dei rapper negli anni 70, ancora oggi sarebbero attuali, perché non è cambiato nulla. E, per questo sì, c'erano un sacco di cose, alla fine praticamente se guardi il telegiornale e ascoltavi quella canzone era uguale. Invece mi piaceva questa canzone di Caparezza, perché dice non siete stato voi, che sembrerebbe, dice non sei stato tu, non è colpa tua, non siete stato, però dice non è che dice non siete stati voi, non siete stato voi. È un modo per dire voi non siete lo Stato, altri sono stati Stato, siamo noi lo Stato, siamo quelli che ci spacchiamo il culo ogni giorno, che andiamo avanti nonostante tutto. Che nonostante quello che voi vi fregate, la vostra incapacità nel governare, nel portare

Cosa gli ho detto poco fa? Cosa ti ho detto? Sono effetti. Cosa ti ho detto poco fa? Stacca l'audio, stacca. Sono effetti, no, che dici qua? Comunque. What's up? L'hai sentito che si è bloccato? È partito già tutti. WhatsApp non funziona. Non lo sapevo, vero? Ieri per 3 ore non funziona più. WhatsApp se l'è comprato quello di Facebook e non lo riesce a fare funzionare più. Oh, c'era gente che correva per strada. Come faccio? Non c'è WhatsApp. Gente che. Il delirio. Hanno messo pure una lapide che ho scritto WhatsApp riposa in pace. Un bordello. Rip. E alla fine. Era secondo me sicuramente un piccolo problema, anche se comunque io ce l'ho avuto il presentimento che tipo lui se l'ha rilevata per farlo distruggere, per distruggerla e far andare meglio Facebook, esatto, il possibile. Messenger, sicuramente la incorporerà con Messenger. Sì, è possibile. Cosa ne pensi tu, dottor Riccardo, di questo argomento? Mi dica. Un po' mi preoccupa il fatto che tutte le migliori idee vadano soltanto ad alcune aziende. Significa che tutto... Che c'è? No, no, come si chiamava la canzone? Vabbè. Caparezza, come si chiamava? Ah, ok, a posto. Non siete stato voi. Dicevi? Non ho stato io! E Puccino Pio non ho stato io! Ah, dai, continua il discorso, che è importante. No, nel senso, mi preoccupa che Google oppure Facebook e altre aziende come queste... Microsoft riescano ad avere sotto il loro controllo tutto quello che tutto quello che c'è di buono in rete, eccetera. È pericoloso perché significa accentrare troppo potere, troppe informazioni in alcune sotto alcune aziende che possono benissimo fare quello che vogliono. Qual è lo stato che riuscirebbe a dire no a Microsoft dopo che ha tutte le informazioni del mondo? Cioè, semplicemente fanno scambi. Cioè, scambi per fare poi la, come dire, spionaggio. Ma tu devi pensare che comunque Facebook, già avendo WhatsApp, c'ha tutta la messaggistica istantanea, tutta ce l'ha lui in mano. Con Facebook quindi ha tutti i numeri di telefono. Che molto probabilmente lui si rivenderà per pubblicità. Certo. Molto probabilmente se li rivenderà per pubblicità. Quindi là sono soldoni che entra. Quindi ha in mano il mondo questo ragazzo, praticamente facendo terra bruciata, perché vedi che ha fatto terra bruciata. Infatti lui. Ci sono altri social network che volendo potevano andare bene, che però non sono mai decollati, ed è un peccato perché c'erano social network che non andavano con la come aziende, ma andavano come a sorta di associazioni, e quindi sì, vero, c'è sempre il pericolo che queste cose, questi dati vengano usati male, però il modo di pensare di un'azienda non è il modo di pensare di un'associazione che lo fa soltanto per il gusto oppure per sviluppare le proprie capacità, cioè dove sono tanta gente che si riuniscono e dicono ok, facciamo un bel social network, paghiamo con quello che riusciamo, con le donazioni e quant'altro, paghiamo i server e poi è tutto gratuito e non c'è pubblicità, non c'è niente. Ok, cosa mettiamo adesso? Io metterei Stolen Dance, che è la canzone che per adesso mi sta facendo proprio impazzire. Va bene, Stolen Dance. Questa la voglio dedicare. La dedico al mio parrinazzo. Amore, vieni qua. Stolen Dance. We can bring it on the floor. Never danced like this before. long, stoned in paradise. Shouldn't talk about it, I want you. We can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on. Do the boogie all night long, stoned in paradise. Shouldn't talk about it, shouldn't talk about it. Finì la canzone, Riccardo, metti input. Tu non mi avverti, tu c'hai qui le cuffie, cacchiarola. Allora, stavamo facendo. Intanto, qua abbiamo un'ascoltatrice che dobbiamo salutare. Beatrice Saitta, un bacio da me e il Parrinazzo. Ma un saluto, dai. E almeno c'è qualcuno che ci ascolta, come dice lì, forse solo io. Ma cioè, no. Tranquilla, noi riusciamo con i nostri potenti mezzi a spiarvi. A vedere quanti ascoltatori abbiamo. Esatto. Non siete molti, però ci accontentiamo. Anche se io scasso molto la minchia su Facebook, lo so. Riccardo l'ha guardato male. Ha guardato male perché ho detto minchia. Prego, Beatrice. Allora, di che parliamo? Prego, tesoruccio, prego. Di che parliamo? Stasera usciamo. Oh, ma qua dai, non si aborda dire... così, dai. No, no. Si aborda, è una mia amica, una mia amica. Sì, sono stanco, ogni volta la gente deve parlare perché uno non può avere un'amica femmina, non può avere. No, tu non puoi avere perché esci con me, basta. Ah, allora, che cosa facciamo? Di che parliamo? Di che parliamo? Parliamo della vita, delle vite. Sì, della vita. No, parliamo che vogliamo che questo pianerottolo caffè sia più seguito, nel senso, è un gruppo, allora, spieghiamo perché non abbiamo fatto una pagina e invece abbiamo fatto un gruppo. Perché abbiamo Spiegalo tu. No, vabbè, abbiamo pensato di fare una cosa un po' più intima, dove la gente potesse un po' più essere coinvolta. Comunicare tra di loro, esatto. mettere notizie. Anche chiudere e mandare a fungolo tutti gli altri e dire, ecco, no, siamo solo noi. Bravissimo, perché poi arrivate noi vorremmo arrivare almeno a 500 metri. Voi vorremmo evitare di arrivare fino alla SIAE. Ma noi ce ne fottiamo della SIAE, noi siamo come I Love Radio Rock, non so se avete visto questo film, è favoloso. Noi siamo come vorremmo diventare una radio abusiva, che fa scomodo a qualcuno. Perché dobbiamo fare in modo da non fare scomodo a nessuno, in maniera scomodare qualcuno, ci devono rompere le scatole e si devono attaccare alla... Questo è il fatto, questo. Quindi noi vorremmo arrivare, il nostro obiettivo è arrivare a 500 membri per poi bloccare il gruppo, metterlo chiuso. Bastardo. Sono goloso, come il nostro Riccardo, vogliamo 500 membri, grandi e grossi. Bastardo, dai. Che cosa mettiamo adesso? Continuiamo sul livello stato, non ci rompete le scatole, esatto, no? Boh, dai. Non lo so, fai tu. Faccia lei, signor Incandela. C'è un artista che è un artista rap che è molto interessante, Frankie ING, RGMC, cioè c'ha tutto il nome più strano del suo mondo. Sicuramente la gente quando si va a comprare un suo disco dice, ma con quello che non si capisce come si chiama. Quelli che ben pensano, che è un testo classico, io direi, del rap, che ce l'ha non soltanto con lo Stato, eccetera, ma proprio con la nostra subcultura di Italietta, di ben pensanti. E fa una raccolta di tutto quello che un po' non va in questa nostra società. Frankie ING MC, quelli che ben pensano. Buon ascolto. Partita. Sono anni 62. È serissima sta canzone. Ah, è serissima sta canzone. In mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo, il fine è solo l'utile e il mezzo ogni possibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere e non far partecipare nessun altro, nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili, sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno. E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me. Come le supposte abitano in blister full optional, con cani oltre i 120 decibel, se nani manco fosse Disneyland. Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano. In costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo. Ma più parabola parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli. Medi come i ceti cui appartengono, terra terra come i missili cui assomigliano. Piratissimi si infarinano, si alcolizzano e poi si impastano su un albero. Nasi bianchi come Fruit of the Loom, che diventano più rossi di un livello di Doom. E sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Per sé, Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica. Mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano. Altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano. Mani che poi firman petizioni per lo sgombero. Mani lisce come olio di ricino. Mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli. Quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV. Che fanno i boss, che compran class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che da loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Eccoci tornati, eccoci, eccoci, mi sento meglio. C'è sta cosa che c'è un po' di differita fra, abbassa un poco perché mi dà fastidio, sì. Fra il quando noi parliamo e quando arriva alla radio, siccome qua c'è Pietro che ci si sta riascoltando, praticamente ascoltiamo la musica da lì. Per evitare che ci sia il solito casino fra... Riascoltarci fa bene. Esatto. Fra il televisore e il microfono, quindi il televisore che fa, poi rimanda l'eco. Riccardo, cosa hai messo sul gruppo? Hai messo una scritta incomprensibile. Esatto, prova a ricopiare e metterla meglio, perché non, poi devo qua ritornare alla radio. Comunque è il Corriere per il Kiev, quello che sta succedendo a Kiev. Esatto. Riprendiamolo un attimo. Perché sta succedendo questo a Kiev, Riccardo? Tu che... Perché che sta succedendo? Sta succedendo che c'è stato il tentativo da parte di del presidente Yanukovych di spostarsi come asse politico dall'Europa, quindi non entrare più in Europa, ma entrare nella Federazione Russa. E c'è stata mezza Ucraina che si è ribellata. Da dirsi anche è vero che mezza ucraina invece voleva entrare nella Federazione Russa. Basta che mi dà fastidio. È bassissimo. Io lo sento. A picchi manquetare, non lo so. E comunque così come a Tolokoski. Chi? Tolokoski, qua com'è? Timoshenko. La Timoshenko, sì, qualche anno fa c'è stata l'accusa di averla arrestata per motivi politici. Quindi questa Timoshenko, che è una bella prima presidente. Mi sembra un pochino arraggiata ella. No, l'hai vista? Bionda, con le trecce, fantastica, è una donna bellissima, sì. Altro che arraggiata. Bella. Bella. Bella. La Timoshenko. Ma se sembra arraggiatissimo. Ma dov'è? Ho appena postato una foto sul gruppo della Kim con le treccioline attaccate ai capelli. Foto sbagliate, che è una bella donna, lascia stare. È una bella donna. A Riccardo gli piacciono le russe mature, eh? E certo, non è che c'ha 20 anni, però neanche grande. Sì, tu mi vuoi dire che questa è buona? Guardate, ragazzi, ho appena messo una foto sul gruppo. Io non la vedo. Dico. Cioè, devi scendere. Dico, tu mi devi dire... Vabbè, certo, hai messo una foto in cui è tutto incappucciato, dopo tre anni che sta in galera, che l'hanno presa, menata, ha fatto vedere in tutto il mondo che l'avevano menata, che l'avevano l'hanno violentata, piena di lividi. Non ha mai detto una cosa del genere, ha detto che l'hanno beccata, l'hanno pestata in carcere. Bastardi. E questa è l'ex presidente dell'Ucraina. E successivamente è salito al potere questo tizio, Yanukovych, che poi ha messo in carcere la Timoshenko, accusandola di non so quali crimini commessi proprio nel momento in cui stava facendo la sua attività politica. E il popolo in questo caso cosa ha fatto? Si è andato sempre in piazza, si è messa a manifestare, ma non è successo niente. Ora, quando si parlava invece di rinunciare alle trattative con l'Europa per entrare invece nella Russia, che ha promesso praticamente di regalargli il gas, quindi tutto quello che pagavano un sacco di soldi per alimentare, lì c'è un freddo boia, quindi se non hanno il gas vuol dire morire. Morire di freddo, sì. Vuol dire, no, morire, non morire, morire di freddo, morire. Morire, sì, lo so. Significa morire. Gli hanno fatto delle proposte, ma non potevano rifiutare. E quindi Yanukovych si era orientato per aderire alla Federazione Russa e non all'Unione Europea. A questo mezza cittadinanza si è ribellato perché ha paura di quello che significa entrare nella Federazione Russa in termini di libertà, quindi di perdita di libertà. E vabbè, comunque chi vuole comandare, diciamo. In che senso? A comandare meglio che a fottere. Sì, vabbè. No. A fare cottia. No. Che c'entra? In ogni caso comandava. Il problema è... No. Come no? Era il presidente. Era il presidente. Però una volta che entravano nella cosa russa... Dove... Nella Federazione Russa comandava Putin e non più lui. Ecco. E quindi non è comandare. Anzi, il contrario, è fare da zerbino ai potenti, dice, questo è come fatto, diceva Frankie, onestamente, neanche a me mi piacessi tanto. Eh sì, lo capisco, ma infatti si sono manifestati per quello che sono nel momento in cui hanno dichiarato illegittima qualsiasi espressione, qualsiasi manifestazione, qualsiasi assembramento. Praticamente in un caffè non potevano essere più di 20 perché già altrimenti andavano contro legge. Cioè, di questo stiamo parlando. La discoteca erano praticamente tutte chiuse perché non si poteva, perché si andava contro le regole. Perché tu, quando ci sono più di 20 persone in un locale, già sono fuori legge. Quindi immagini che cosa significava. Quindi adesso, una volta che è liberata la Timoshenko, Yanukovych è sfuggito nell'est del paese cercando di andare in Russia, chissà perché troverà asilo in Russia, chissà perché. Dice la Timoshenko, dice finalmente la dittatura è finita. Comunque ora uno stacchetto, mettiamo una canzone e poi andiamo con la chiusura. Vorrei proporvi come canzone, se Riccardo me lo permette. Mm-hmm. Qualcosa che abbiamo qui. Perché Kanye West, Black Skinhead, che è la colonna sonora di The Wolf of Wall Street. È una canzone quando favolosa. Quando me l'hai detto sta canzone da mettere, che io qua non ce l'ho proprio. Ah, ce l'ho su YouTube. Io non ce l'ho qua, quindi che cavolo. Fammi sentire come si sente. Dai, mettiamo aspetta, qua. No, mettiamo questa canzone. Poi aspetta. Poi te la metto, tranquillo. Intanto la scarica. Bravo Riccardo, bravo Riccardo. Bravo. Cosa mi stai mettendo? Look at me! Ascolta. I have the power! Ascolta. Vai. Viva Cristo! Viva Cristo, yeah! I live for Christ. For him I saw my life. I live my life. And I dedicate to Christ, I live for Christ, and for him I shine my light. So you got a water flow, Jesus walked on it, and I can hear you unless Jesus talk on it. Christ life for nothing, you can say I clone it, not in this world, you can call me homeless, until I get to heaven with my God, that's the bonus. I'm on the daily bread, and you can keep the donuts, talk about any subject, but if it's Jesus, they like hold up, asking for miracles like Lord show us, then don't pay attention when it rainbow does, do you understand? Understand what's coming out my molars. Sometimes the gospel's hard to swallow, hot cold. Coca-Cola. I believe I'm Sunday Point Island or Samoa. No pockets full of cash, but my heart is full of hope. He cleaned me up like soap on the rope. Satan get the rope, but don't cast his clay. You can bang what you want, I'm saved all day. I live my life, and I dedicate it to Christ. I live for Christ, for him I sign my life. I live my life, and I dedicate it to Christ. I live for Christ, and for him I sign my life. I'm still banging bud, peace to X-Men. Catch me chopping up the Bible with a ring, X-Men. I be focused on the right like I lost my left hand. Walking in the light as if I need a 10. I follow the Lord knows, call it 2 can. I sing it to the Lord a new song, that's why I make these jams. This is the way I pray, this is the way I praise. I do this for my Lord, so who cares what you say? Me and Jesus fly together, I ain't got a jam, Drake. And we don't need a holiday to celebrate. I spit it like I see it, done to revelate. The turn up is so real on the way I meditate. I think of how to grow my relations, emancipate myself from sin with this proclamation. I gorilla for the Lord, ain't no breaking, like a car with no pedals, speeding through a dead end. I live my life, and I dedicate it to Christ. I live for Christ, for him I sign my life. I live my life, and I dedicate to Christ. I live for Christ, and for him. Io non capisco cosa vuole il nostro amico Pietro con sto Black Skinhead. No, mi piace la canzone perché praticamente mi sono andato a vedere The Wolf of Wall Street ed è la colonna sonora. Il film The Wolf of Wall Street è un filmone, nel senso, è fatto bene. È fatto bene, con Leonardo DiCaprio. Beh, bello, il lupo di Wall Street, è uno che poi si apre un'agenzia di... Non l'ho visto il film. No, di azioni, praticamente vende aria fritta, in poche parole questo film, questo qui, te lo spiego a te in maniera veloce, questo qui... A loro no però. Sì, a voi, a loro, a chiunque, a essi, a tutti. Praticamente questo vende aria fritta, delle azioni che non valgono un cazzo, li vende a gente che hanno i soldi. Non valgono un beep. Un pippone, li vende a gente che hanno i soldi, quindi ne vende tante, diventa tipo milionario. Le azioni acquisiscono valore praticamente. Poi solo in culo. Beep. E lui rimane nella merda, lo mettono in carcere. E comunque è un bel film. Mi piace questa colonna sonora. Quindi ve la propongo. Questi nazisti neri, skinhead, black skinhead. Allora, Kanye West con Black Skinhead. Oh yeah. Like that on your ass. like the Romans. 300 bitches, we're the Trojans. Baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. Stop all that coon shit, right. Early morning cartoon shit, right. This is that goon shit, fuck up your whole afternoon shit. I'm aware I'm a wolf, soon as the moon hit. I'm aware I'm a king, back at the tomb, bitch, right. Back at the room, bitch, right. Stop all that coon shit, right. These niggas ain't doing shit, right. Them niggas ain't doing shit. Come on, homie, what happened? You niggas ain't breathing, you gasping. These niggas ain't ready for action. Ready for action, action. And I'm zoning, I think I'm possessed. It's an omen, I keep it 300. Like the Romans, 300 bitches. We're the Trojans, baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. So follow me, yeah, cause this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would've been blacked out on your ass. Eccoci, rieccoci. Boh, non lo so, se, spero che a voi vi sia piaciuta questa Black Skinhead. Ma tu devi sentire la canzone, tipo stamattina l'avevo a tutto volume a casa, senza neanche capire sicuramente... che cosa erano gli Skinhead. Mi piace la canzone. Sì, cioè, sicuramente è un bel ritmo, però se si mette a parlare di ammazzare, fare e dire, dico, non lo so. E invece io qua avevo in testa una vecchia canzone dell'Itfiba, una delle prime. Bella. Modi. Che significa maledetto, e appunto parla di questo che arriva nella stanza dei bottoni e schiaccia, comincia a schiacciare. E voglio sapere tutti i segreti, anche, si mette a parlare anche del Vaticano, tutti i segreti del Vaticano, eccetera, eccetera. E non è importante la posizione che hanno questi riguardo la Chiesa, naturalmente, diversa dalla mia, però ho sempre ascoltato questa canzone, mi ha sempre dato grinta e mi ha anche dato rabbia in un certo senso. Per il fatto che viene passato, viene usato lo Stato, viene usato quello che dovrebbe essere l'organizzazione della società per vivere meglio tutti quanti insieme. Io lo guardo negli occhi e vedo quanto è profondo. Certe volte mi perdo nelle sue parole. Ti perdi nelle mie parole significa che non ne capisci un cavolo. Bravo! Esatto. Dai, Litfiba, Modi. Negra. Anna. Di notte voglio ballare nella stanza dei bottoni, staccare tutti i fili delle tue decisioni. Staccare tutti i fili con la tua benedizione. Tutto sulla chiesa in Africa, tutto tutto sull'obiezione e le stragi senza noi. Soy Monty, Monty, Monty, Monty, Monty, Monty. Eccoci, rieccoci, rientrati. Eccoci, rieccoci in diretta. Sono qui al telefono con il nostro amico Domenico. Non Cozzolino, ma Saladino. Saladino, fai un saluto, fai un saluto, fai un saluto. Non si sente niente lì. Ciao, raga. Wow, wow. Ma che salutone, ma ciao, che salutone. Raga. Dai, fai un saluto migliore, ti puoi impegnare di più, lo sappiamo. Sappare a butta pure a campare. Ma hai sonno? Stavi dormendo? Dai, cominciamo a salutare tutti i nostri amici ascoltatori, il nostro amico Domenico, Beatrice che ci ascolta e ogni tanto ci manda qualche messaggio. Ma io vi dico solo una cosa, partecipate più nel gruppo, cercate di scrivere di più, mettete quello che volete, fate quello che volete. Mandateci a quel paese. Mandateci a quel paese, incazzatevi, schifiatevi. Qualsiasi cosa, però partecipate al gruppo, l'abbiamo fatto per tutti. Basta che ci cagate un po'. Aspetta, aspetta, aspetta. Inizialmente dobbiamo dire che l'abbiamo fatto per divertirci noi due. Passarsi il tempo. Capito? Poi se voi volete divertirvi pure, partecipate, è aperto a tutto il gruppo. Appena arriviamo a 500 membri, noi lo chiudiamo, ve lo diciamo. Ciao ragazzi. Diventiamo in. Ciao ragazzi. Osanna Marco Barrientos. Osanna e Osanna e Osanna, Osanna nel cuore. Y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Vieni! Ma che vieni? Puoi tenere il lungo canarotto!